America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Prima, più di prima, non è soltanto una canzone, ma è anche il motto delle banche americane, delle grandi istituzioni finanziarie, che come prima, cioè come pre-crisi e più di prima addirittura, continuano a indebitarsi, a investire in derivati, ad assumere rischi pericolosi dal punto di vista sistemico. Dunque, rischio paese, come abbiamo visto una decina di giorni fa al Fondo Monetario Internazionale, fragilità sistemica che parte dalla Grecia, niente di tutto questo. La vera paura oggi dei policy makers guarda discretamente, sottolineo discretamente perché ancora non è un fenomeno di massa, altrove, al ritorno dei derivati e a una cifra spaventevole. Il mercato globale di questi strumenti esotici sfiora i 600 mila miliardi di dollari, e un volume insostenibile, un volume irreale, perché bisogna chiederselo: com'è possibile che questo mercato, quello dei derivati, voglio dire, che dovrebbe in teoria coprire e stabilizzare i costi di approvvigionamento per l'economia reale, superi, pensate, di 40 volte il valore dell'intera economia americana? Beh, naturalmente è una proporzione che non ha molto legame con la realtà, è una mina vagante. Ci sono molte spiegazioni per la formazione di questa nuova bolla che cresce sull'onda di operazioni carry forward, che rimbalza su nuovi prodotti assicurativi che si sono evoluti, per esempio, dai vecchi CDS, che ha portato a uno scontro epocale proprio in questi giorni fra imprese e banche sul fronte delle regole. È un fenomeno, devo dire, molto preoccupante, di cui il Sole 24 Ore in edicola questa mattina si è occupato a fondo. C'è un editoriale del direttore, c'è un'inchiesta del mio collega qui da New York, Claudio Gatti, c'è un mio intervento proprio in materia. Continueremo, un'inchiesta a puntate, siamo il primo giornale in Europa a lanciare un po' questo grido d'allarme che finirà per dominare il dibattito all'interno del G20, all'interno delle istituzioni multilaterali. Si l'on veut reconstruire un système financier viable, la moralisation du capitalisme financier est une priorité. Avete sentito la voce di Nicolas Sarkozy, il presidente francese, presidente anche di turno del G20. Lui vorrebbe imporre una tassa sulle transazioni finanziarie internazionali, ma la sua posizione non è condivisa dagli Stati Uniti, che sono contrari a una tassa. Lo è persino il presidente Barack Obama, che pure a un certo momento ne aveva contemplata una per il suo mercato interno. Gli Stati Uniti premono sulla formazione di capitale. È importante che le banche e le istituzioni abbiano un capitale adeguato per poter far fronte a certi pericoli, a certi rischi. Le nostre banche italiane, sappiamo, sono proprio in una fase di rafforzamento del capitale. Vi dicevo che in questi articoli usciti questa mattina diamo numerosi esempi. Io ho parlato del carry forward, ma ce ne sono mille altri esempi di prodotti finanziari a rischio. Le notizie ormai si inseguono, per cui già questa mattina abbiamo una novità: la Commodity Future Trading Commission, la CFTC, ha dichiarato di voler imporre un controllo sui fondi comuni che scommettono su oro, petrolio ed altre materie prime attraverso sussidiarie estere, e dunque, essendo all'estero, evitano le regole che sono state imposte per minimizzare il rischio. E dunque l'idea della CFTC è di costringere questi fondi comuni a sottoporsi, anche se sono all'estero, alle regole americane. Altre notizie: c'è una battaglia in corso fra alcuni importanti finanzieri americani. Jay Paulson, per esempio, il finanziere di maggior successo negli ultimi tempi, lo ricorderete, è stato colui che fece molti miliardi di dollari speculando contro i subprime, dunque fu uno dei finanzieri che uscì rafforzato dalla crisi. Beh, si sta spartendo i vecchi asset, il vecchio patrimonio di Lehman Brothers, valutato in 61 miliardi di dollari con Goldman Sachs. In questo caso è un'operazione speculativa che ha funzionato perché hanno acquistato dei titoli rappresentativi di Lehman Brothers e adesso presentano questi titoli all'incasso. Ecco, l'atmosfera speculativa, direi, continua a dilagare. Bene, abbiamo visto il quadro generale della situazione. Microfoni di America 24, Roberto Napoletano, il direttore del Sole 24 Ore, che ha lanciato questa inchiesta, ha scritto un editoriale a proposito. Buongiorno Roberto. Buongiorno. Ecco Roberto, qual è la tua idea? C'è una dinamica esplosiva, direi, abbiamo visto con questi nuovi strumenti o vecchi rinnovati sul mercato. C'è una mina vagante. Qual è la tua sensazione? La mia sensazione è che la situazione vada messa sotto controllo, monitorata con grande attenzione. La musica è ripresa, un po' con la stessa orchestra, gli stessi direttori di prima. Sono cambiate le note, sono cambiati gli spartiti. Prima c'erano i subprime, ora ci sono altri strumenti finanziari con modalità altrettanto rischiose. Se un banchiere esperto e non aduso a fare allarmismi come il governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, presidente tra l'altro del Financial Stability Board, lancia un allarme, dice occorre maggiore vigilanza da parte delle autorità su questi strumenti, vuol dire che noi dobbiamo vederci chiaro e dobbiamo soprattutto renderci conto che non solo non si è fatto una nuova Bretton Woods, come si diceva all'inizio, quindi un accordo, un nuovo trattato in grado di ridefinire i controlli e che avesse un valore cogente, diciamo, per i governi, ma si fatica ad attuare pure quelle riforme che comunque sono state approvate e che ora devono passare alla fase esecutiva. Ecco, le banche soprattutto se dedicano energie e risorse a investimenti finanziari, che dunque sono in qualche modo fini a se stessi e non al finanziamento del credito d'impresa, finiscono per creare un danno all'economia. Secondo te non è questo un risvolto negativo di questo atteggiamento di banche, soprattutto internazionali? Questo è certamente un risvolto molto negativo, ma prima ancora di questo risvolto, che poi diventa particolarmente negativo in Italia, che già ha pagato un conto molto salato senza avere colpe gravi, perché in questa crisi finanziaria l'origine, come tutti sanno, sono i subprime e sono, diciamo, l'esplosione dei debiti privati americani e inglesi che sono stati coperti con un nuovo debito pubblico mondiale. Noi non avevamo responsabilità, forse per un certo provincialismo delle nostre banche, ma comunque anche per una maggiore prudenza, le nostre esposizioni erano inferiori. Quindi il rischio che oggi si torni al, diciamo, sotto sotto a fare quello che si faceva prima e che quindi questo si traduca in un nuovo costo per l'intera comunità, oltre, diciamo, a determinare dei problemi serissimi, perché non ci sono più queste disponibilità di indebitamento pubblico, perché molto capitale è stato già impegnato, ma soprattutto c'è il rischio che in qualche misura si riduca l'effetto dei nuovi aumenti di capitale che le banche italiane stanno facendo e che devono, come dire, consentire di mettere capitale a servizio degli impieghi del nostro miglior capitalismo. Ecco, una provocazione: se però le altre banche continueranno per un paio d'anni, 2-3 anni, prima che poi magari ci sia un rischio di qualche nuova esplosione, a speculare e a fare grandi quattrini e a rafforzare le loro basi di capitale, non c'è un rischio che le nostre banche, che sono molto più prudenti, perdano un treno? Lo vediamo del resto in titoli che non fanno performance straordinarie. Ma io francamente, se questo tipo di operazioni sono, tra virgolette, per capirci il male, non consiglierei mai alle banche italiane di seguire questa strada. Io credo che le banche italiane devono, come dire, rafforzarsi, devono adeguare il loro patrimonio quando è necessario, e spesso è necessario, devono affinare i criteri con cui di selezione nell'impiego del denaro, devono avere a mente che il loro primario interlocutore è una imprenditoria molto internazionalizzata, un'imprenditoria dinamica, un'imprenditoria che ha certamente, che sconta certamente la mancata crescita dimensionale e che in questo senso va incoraggiata, ma che dimostra ogni giorno di sapersi misurare su tutti i mercati, di conquistarne sempre di nuovi